Allora, io sono Donati Romano, nato qui a Calviano, e questo terreno era del mio nonno praticamente, è stato tramandato al mio papà e adesso lo coltivo io praticamente. Dimmi. Anni hai cominciato questa attività? È da poco, io vedevo il mio nonno e il mio papà che coltivavano questo, però siccome io facevo tutto un altro lavoro prima, Che adesso sono. sarebbe, per favore? Io facevo prima, vendevo pezzi di ricambio delle macchine e Oh. dopo ho lavorato qua nella fabbrica qua a Calviano dove fanno i lettini per le sale operatorie, Capisco. l'OPT. Allora, E dopo ho ok. visto mio papà e mio nonno che coltivavano e visto che sono in pensione ho del tempo libero e allora ho detto proviamo e facciamo anche noi. E ti Insomma. piace? Sì, mi piace perché mi perdo un po' di tempo e poi si prende su del cibo sano, insomma, ecco che sai che lo produci tu, insomma, ecco che non è trattato praticamente. Ok. Dimmi. Che pomodori ti piacciono? Ma a dire la verità, il pomodoro non è che, sì, lo metto giù, ma ne metto poco perché mi si è sempre ammalato e metto quasi sempre quelli piccoli da fare il sugo praticamente, ecco. Quelli grandi si ammalano prima e allora adesso io provo, se viene qualcosa sono contento, sennò andiamo avanti così, insomma. Dimmi, dimmi. Ok, qual è la pianta che cresce meglio? Bah, un po' tutte, però di solito qua da noi la cicoria, il radicchio, l'insalata praticamente, ecco. Dopo, per esempio, là ci sono dei cavoli, ne ho Belli. messi giù anche degli altri, quello là sarebbe un cavolo rosso, però siccome ha fatto troppo caldo è andato in semenza praticamente, quello lì non diventa rotondo e non si può mangiare, praticamente lo devo togliere. Ma quanto lavori al giorno? Ma conforme, se magari vengo giù la mattina, perdo quasi tutta la mattina. Se vengo il pomeriggio sto qua un paio d'ore, dopo vado a farmi un giro, dopo vengo ancora. Non ho orari, quindi si può fare quello che si vuole, insomma, ecco come tempo. Flora? Ovviamente non lo faccio sulle ore più calde. Cosa Dimmi. coltivi nelle varie stagioni dell'anno? Ma un po' di tutto, l'insalata principalmente. Poi ho messo giù le carote, i rapanelli adesso che sono sotto quel telo. Grigio, li vedi? Io ho messo giù i rapanelli e le carote, le ho seminate. L'anno scorso invece avevo le carote, le avevo strapiantate, avevo preso già le piantine e le avevo messe giù, però non vengono bene perché non crescono lunghe, crescono tutte deformate. Allora provo quest'anno a seminarle. Invece l'anno scorso avevo messo le cipolline sottoterra e le avevo messe a novembre per restare sotto tutto l'inverno e dopo in primavera le iniziato a buttare cosciccia. Che sono questi? Questi sono mughetti, sono fiori questi. Sono mughetti. Belli. Erano della mia zia e ho tenuto pezzi, insomma. Queste invece sono fragole. Sono ancora coperte dalle foglie in modo che gli tiene un po' di caldo. E qua, questo qua è un albero dei cachi, perde le foglie e le lascio cadere qua, le lascio qua in modo che tiene caldo alle Avete visto che usa fragole, questa pellicola, no? ce l'ha anche mio papà. Sì. E perché la mette? Sapete perché la mette? Perché così rallenta la crescita dell'erba praticamente. Vedete che l'ho fatto anche là? Avevo messo le piantine, ho fatto il buco e ho messo giù la piantina. Romano, posso Qua? chiederti Dimmi, dimmi. se ti fai un piccolo, se racconti la storia di questa piccola proprietà, di questo edificio, perché so che è una storia particolare. Sì, a dire la verità, prima era dei miei nonni, praticamente. Sotto la casa grigia, era dei miei nonni e sopra della mia zia praticamente. Adesso la zia è morta e quindi lì non abitano nessuno, mentre sotto, siccome dopo erano venuti ad abitare i miei genitori, poi sono morti anche i miei genitori, adesso abita mio fratello. E una volta qua, al posto dove c'era l'officina, lì c'erano delle stalle, perché il mio nonno faceva il commerciante di cavalli. Vendeva, comperava e vendeva i cavalli, praticamente. È sempre stata così la casa, sì, o è cambiata? No, cioè, quale? È cambiata là dove c'è la porta d'entrata, quella bassa, vedi quella bianca? Sì. Ecco, dove c'è la tenda. Lì c'era un arco e entravi su un pianerottolo, dove c'era l'entrata per andare dentro nell'appartamento del nonno. E da questa parte qua che era la cucina e di fronte che erano le camere. E queste sono sempre stati orti? Sì, sì, anche al di là sono sempre stati orti. Qua, qua e anche qua l'era una vecchia barchetta. L'acqua praticamente battendo qua su questo pannello qua si alza e passa dentro, vedete qua. Ah, ma aspetta. C'è un po' d'acqua. Ma non scavalca? No, e dopo sì, piano piano si alza, bisogna aspettare un po' perché... Ma poi la togli, vero? Dopo, quando ho riempito quella cisterna... Ma è una cosa che fai spesso? No, quella lì... Cioè, però serve farla o... Eh sì, perché così non adopero l'acqua potabile. Finalmente un po' d'acqua. Acqua potabile! Potabile, vero? Vedi che aumenta da questa parte qua. Poi non sparisce.